Questo è un podcast di Rivista Militare. 80 anni da El Alamein, di Carlo De Risio. Capitolo 4. Seconda battaglia di El Alamein, 31 agosto, 6 settembre 1942. Nel luglio 1942 gli affondamenti di navi italiane dirette in Libia furono di due sole unità. I convogli passavano, consentendo di far affluire rinforzi e soprattutto rifornimenti. In agosto, di colpo, la curva degli affondamenti riprese a salire, a causa di attacchi condotti da sommergibili, aerosiluranti, bombardieri britannici. Malta tornava a brandire, per usare l'espressione di Churchill, la sua spada fiammeggiante. Ma anche dal Delta e dalla Palestina i britannici portavano devastanti attacchi nelle acque del Mediterraneo orientale. È il caso di precisare che nel periodo agosto-novembre 1942 42 mercantili italiani e tedeschi colarono a picco, comprese molte preziose petroliere. In particolare 10 navi in agosto, 9 in settembre, 12 in ottobre, 11 in novembre. Poiché quella in Nord Africa fu soprattutto una guerra di convogli, dovendosi trasportare praticamente tutto via mare, le perdite subite dall'asse furono gravissime, tanto più che avvennero in coincidenza con l'ultima offensiva italo-tedesca, fine agosto, e con la battaglia finale di El Alamein, fine ottobre. Inoltre, a causa dei contemporanei crescenti impegni in Unione Sovietica, l'alto comando tedesco non solo non inviò altre unità corazzate in Nord Africa, ma non fu nemmeno in grado di tenere a numero i carri in organico al DAC. Stentato e insufficiente anche l'impegno italiano, pur mettendo nel conto le difficoltà dell'industria nazionale e la povertà di materie prime. Il carro base delle nostre divisioni corazzate era sempre l'M13, con un cannone da 47 su 32. La produzione di carri del 1941, 1.222 esemplari, non fu peraltro né superata né tantomeno eguagliata nel 1942 e si rinunciò, per motivi inesplicabili, a concentrarsi nella produzione del semovente da 75 su 18, il solo in grado di sovrastare i carri britannici e soprattutto i nuovi carri statunitensi. Si stavano costruendo nuovi semoventi da 90 su 53 per destinarli in Russia, dove era già finito il meglio del materiale di artiglieria. Poiché si è accennato alla battaglia dei convogli, è il caso di aggiungere che in agosto la Royal Navy compì uno sforzo supremo per rifornire Malta, operazione Pedestal. Entrarono in Mediterraneo le navi da battaglia Nelson e Rodney, le portaerei Victorious, Indomitable, Eagle, Furious, e uno stuolo di incrociatori e cacciatorpediniere a copertura e di scorta ad un convoglio formato da 14 mercantili. L'aeronautica italiana e la Luftwaffe, sommergibili, motosiluranti e MAS della nostra marina e di quella germanica, attaccarono quella autentica armada nel corso della cosiddetta battaglia di mezzo agosto, 11-14 agosto 1942. La portaerei Eagle affondò, la Indomitable riportò gravi danni, affondarono gli incrociatori Cairo e Manchester, mentre il Kenya e il Nigeria venivano silurati e si salvarono a stento, affondò il cacciatorpediniere Foresight. Soprattutto colarono a picco 9 mercantili, un'ecatombe, ma 5 mercantili riuscirono a raggiungere Malta e la battaglia si concluse con un successo strategico inglese, anche se pagato a caro prezzo. Avvenivano intanto, nei due eserciti contrapposti, importanti mutamenti al vertice dei comandi. A partire dal 12 agosto 1942, il Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale mutò la propria denominazione e si chiamò Comando Superiore Forze Armate della Libia, con giurisdizione militare in tutto il territorio della colonia. Nella stessa data, l'armata italo-tedesca, agli ordini del maresciallo Rommel, passò alle dirette dipendenze del Comando Supremo Italiano. E per i contatti con l'armata venne creata una delegazione, che prese il nome di DELEASE, Delegazione Africa Settentrionale Egitto. Come ricorda il maresciallo Bastico, che era anche governatore generale della Libia, L'unico risultato fu che Rommel assunse piena autonomia e fu libero di agire come meglio credeva. Da quel momento, gli organi italiani in Africa funzionarono come semplici uffici di collegamento con il comando tedesco, mentre per i rapporti con il comando supremo a Roma, Rommel si servì soltanto del generale von Rintelen, addetto militare tedesco a Roma. Col nuovo ordinamento, aggiunse Bastico, io veni ad assumere l'ipotetico comando delle forze armate in Libia, con una circoscrizione territoriale che si limitava in pratica alla Tripolitania e al Sahara libico. Profondi mutamenti di comando anche in campo britannico. Il primo ministro Winston Churchill e il capo di Stato Maggiore, generale imperiale Alan Brooke, diretti a Mosca, fecero sosta al Cairo, all'andata e al ritorno, per importanti colloqui con Stalin. La rimozione del generale Claude Auchinleck dal comando del Medio Oriente era già stata decisa, per cui inizialmente il generale Gott, un alto veterano della guerra nel deserto, avrebbe dovuto assumere il comando dell'ottava armata e il generale Alexander, quello del Medio Oriente. Ma Gott morì durante un trasferimento in Egitto, quando l'aereo sul quale viaggiava venne abbattuto, per cui al comando dell'ottava armata fu designato il generale Bernard Law Montgomery, che si propose come l'anti-Rommel. La rimozione di Auchinleck fu profondamente ingiusta, perché era stato lui a salvare l'Egitto. L'avvicendamento avvenne ufficialmente il 15 agosto 1942, quando Auchinleck aveva non soltanto stabilizzato il fronte a El Alamein, ma definito i piani per fermare l'ultima offensiva di Rommel che si preannunciava. Nell'agosto 1942 i colpi di scena degli alti comandi non si fermarono qui. Il 22 agosto, infatti, Rommel chiese di essere sostituito per motivi di salute. Sotto la stessa data, nel diario di Cavallero, si legge: «Von Rintelen mi informa che il maresciallo Rommel ha chiesto di essere sostituito per malattia. Problemi che ne conseguono. Domando se vi sono altri motivi. Von Rintelen crede di no. Rommel farà o no l'offensiva. Se non agirà, dovremo metterci sulla difensiva. Dimostro che la situazione imperniata su un uomo non va. Ecco le conseguenze». Ma anche Cavallero aveva contribuito alla eccessiva personalizzazione del comando in Africa col nuovo ordinamento da lui voluto il 12 agosto. Nota dell'autore. Rommel era stanco, soffriva di difterite nasale, lamentava disturbi gastroenterici e aveva il volto piegato dal sole, ma la sua richiesta di essere sostituito denunciava una crescente sfiducia in un esito vittorioso dell'imminente offensiva. Tanto è vero che alla vigilia dell'attacco si lasciò andare a questa intima confessione. «La decisione di attaccare è la più difficile che io mi sia mai trovato a prendere. O riusciamo a raggiungere il canale di Suez e il nostro esercito è in Russia, ce la fa impadronirsi di Grozny e del Caucaso, oppure...» E concluse con un gesto vago. Ricorda sempre Bastico, dopo la richiesta di Rommel di essere sostituito: «La scelta cadde sul maresciallo Kesselring, ma forse fu proprio questa scelta, per via di vecchi rancori, che indusse Rommel ad accantonare i suoi propositi di lasciare il comando e a spingerlo ad affrettare l'offensiva». In data 28 agosto, infatti, la Volpe del Deserto emanò l'ordine d'operazione fissando come data d'inizio della battaglia il 30 agosto. Le forze che si fronteggiavano erano le seguenti. Da parte italo-tedesca, 67 battaglioni di fanteria, 30 italiani, 536 cannoni, 336 italiani, 515 carri armati, 281 italiani, 119 autoblinde, 72 italiane, e 777 aerei tra bombardieri, caccia e ricognitori. Da parte britannica, le forze erano state valutate in 66 battaglioni di fanteria, a organici completi, mentre non lo erano quelli italo-tedeschi. 576 cannoni, 450 carri armati, 150 autoblinde e 1200 aerei di tutti i tipi. L'ultima offensiva dell'armata italo-tedesca ebbe inizio come fase di preparazione la sera del 30 agosto, con attacchi diversivi nel settore centro-settentrionale. vi presero parte la divisione italiana a Trento, la 164esima divisione tedesca, reparti di paracadutisti della divisione Folgore e la brigata Ramke. Ancora una volta, la massa di manovra gravitò nel settore meridionale. Con l'intero DAC attaccò il 20° corpo motorizzato italiano, con le divisioni corazzate Ariete e Littorio e la divisione motorizzata Trieste, che operavano sulla sinistra della 15ª e 21ª Panzer. Le divisioni italiane, al pari di quelle germaniche, rimasero subito invischiate nei campi minati, sorprendentemente e pericolosamente più estesi e con maggiore profondità del previsto, mentre la RAF eseguiva attacchi notturni micidiali e il fuoco di reazione delle artiglierie, delle armi automatiche e dei mortai britannici era nutrito e ben diretto. Se si deve prestare fede al generale Freddy de Guingamp, capo di stato maggiore di Montgomery, un trucco avrebbe influito sul difficile inizio della battaglia da parte dell'asse. In alcune parti del deserto, afferma de Guingamp, il terreno era duro e fermo, in altre era cedevole e poco transitabile. Pensammo allora di alterare le carte topografiche, facendo figurare molli i terreni duri e viceversa. L'area intransitabile nei pressi della posizione della 7ª divisione corazzata, conosciuta con il nome di depressione Ragil, fu indicata come eccellente per la natura del terreno. Una di queste carte, sdrucita e sporcata apposta con macchie di tè, fu messa in un carro da ricognizione che venne fatto saltare su un campo di mine di fronte a noi. Il mattino successivo il carro era stato rovistato e la carta non c'era più. Come conseguenza, durante la battaglia, la principale linea di collegamento tedesca correva attraverso la depressione Ragil, dove andò esaurendo quasi tutta la scorta di benzina. Questa ruse de guerre, la cui efficacia è negata da altre fonti, avrebbe dunque acuito il problema dell'alimentazione della battaglia da parte dell'armata italo-tedesca. Infatti, la mancanza di benzina viene indicata come la causa principale dell'insuccesso della battaglia che è passata alla storia con il nome di Alamaifa. Ma fu veramente l'insufficiente disponibilità di carburante a mandare all'aria i piani di Rommel? A parere del facente funzione di capo di stato maggiore dell'Africa Corps, colonnello Fritz Bayerlein, le cose andarono in maniera sensibilmente diversa. Alla fine di agosto del 1942, l'Africa Corps era comandato dal generale Nering, ma il giorno 31 Nering rimase seriamente ferito sul campo e il comando venne assunto dal generale von Furst. Tuttavia, fu Bayerlein ad avere nelle mani la direzione tattica delle operazioni. Questa fase dell'intero ciclo operativo sul fronte di El Alamein è nota anche come la corsa dei 6 giorni, perché 6 giorni durò l'ultimo tentativo dell'asse di sfondare in direzione di Alessandria e del Delta. Occorre ricordare che alla fine di agosto era avvenuto un importante preliminare scambio di comunicazioni tra Cavallero, Kesserling e Rommel per quanto concerneva l'alimentazione dell'imminente battaglia. Come riserva minima per l'offensiva, Rommel aveva chiesto 6.000 tonnellate di carburante, aggiungendo: «La battaglia dipende dall'arrivo tempestivo di questa benzina». Cavallero aveva allora comunicato: «Lei può cominciare la battaglia, il carburante è in viaggio». Rommel fu rassicurato anche dal fatto che Kesserling gli promise che nel caso in cui i trasporti marittimi fossero stati falcidiati, la seconda flotta aerea avrebbe provveduto a far giungere il carburante necessario. Il 30 agosto, quando fu buio, reparti corazzati tedeschi investirono, come si è detto, il settore meridionale del fronte, con l'obiettivo di superare di slancio la fascia minata, aggirare l'intero schieramento inglese e sboccare sulla costa all'altezza di El Hammam, alle spalle dell'ottava armata. La 15ª Panzer entrava in battaglia con 70 carri tipo 3 e 4 e la 21ª Panzer attaccava con altri 120 carri armati di cannone. Si dovevano escludere i carri modello 2, poco armati e inadatti per una battaglia di carri, ma va sottolineato che il numero dei Panzer a disposizione di Rommel era nettamente inferiore a quello con il quale aveva combattuto la precedente battaglia di Ain en Ghazala e di Tobruk. Prima di mezzanotte, le punte della 15ª Panzer urtarono contro la difesa britannica nella cintura minata. Ma lì, dove si contava di trovare soltanto deboli forze, si trovarono invece profondi campi minati e una difesa attenta. Il primo battaglione del 115° Reggimento Granatieri Corazzato, comandato dal maggiore Bushk, capitò in uno sbarramento assicurato da artiglieria e fanteria britannica. Si verificò un notevole scompiglio. l'arrivo del secondo battaglione, guidato dal capitano Weichsel, riuscì tuttavia a salvare la situazione. Attaccò a piedi, superò lo sbarramento minato, costituì una testa di ponte e rese possibile la creazione di un passaggio per i carri della 15ª Panzer. La fase che segue va raccontata al presente. Il generale Walter Nehring, comandante dell'Africa Corps, segue la 21ª Panzer a bordo della sua autoblinda. Accanto a lui siedono il capo di Stato Maggiore, colonnello Bayerlein, 3 marconisti e 2 autisti. Le mine scoppiano tutti intorno. Nehring riceve la prima triste notizia. Il comandante della 21ª, generale Georg von Bismarck, un valente ufficiale, è caduto alla testa della sua unità mentre tentava di attraversare la fascia minata. Mezzanotte è ormai trascorsa. È cominciato il 31 agosto. Le divisioni continuano a combattere nei vasti campi minati, strenuamente difesi dall'avversario. Dall'alto, le bombe e le armi di bordo degli aerei britannici martellano le forze motorizzate italiane e tedesche. I britannici usano un nuovo metodo per illuminare il terreno. Lanciano un materiale infiammabile, contenente anche magnesio, che si incendia soltanto quando è a terra e che è difficile spegnere. Il campo di battaglia è conseguentemente illuminato a giorno. Dopo von Bismarck, la struttura di comando dell'Africa Corps perde anche Nehring, che rimane ferito nel corso di un bombardamento aereo, e Bayerlein ora a guidare i reparti corazzati avanzati. Poco prima dell'alba, la resistenza dei britannici nella fascia minata diminuisce. In tal modo, le punte corazzate del DAC possono raggiungere, a giorno fatto, un settore a 12-15 km dalle posizioni di partenza invece dei 50 km previsti. Ci siamo un po' dilungati sulle serie difficoltà incontrate dal DAC perché è indubbio che le divisioni corazzate tedesche rappresentavano l'ala marciante. Ariete, Littorio e Trieste coprivano il fianco sinistro del DAC e tutte le relazioni sulla battaglia attestano che incontrarono le stesse difficoltà della 15ª e 21ª germaniche. Il piano di Rommel, che era quello di penetrare profondamente verso est e di ruotare all'alba verso la costa, era dunque fallito. Riflettemmo se interrompere la battaglia, narra Bayerlein, perché gli inglesi sapevano ormai dove eravamo. Rommel parlò con me della situazione e giungemmo alla decisione di continuare l'attacco. Ma una cosa era evidente. La grande soluzione, ossia il vasto aggiramento dell'ottava armata, non era più possibile. In quanto l'avversario aveva avuto il tempo sufficiente per preparare le sue controazioni. L'avversario ci costringeva dunque alla piccola soluzione. Essa consisteva nel fatto che noi dovevamo girare verso nord, assai prima di quanto progettato, e in tal modo urtare direttamente contro il dorso dell'altura di Ala Maifa, con l'importante quota 132, che doveva essere conquistata mediante un attacco diretto. A questa fase cruciale della battaglia di Ala Maifa è legato il mancato arrivo della benzina. Una dopo l'altra erano state infatti affondate o gravemente danneggiate le petroliere San Andrea, Pozzarica, Picei Passio e Abruzzi. E Kesserling? Egli tenne fede alla promessa ed entrò in azione, ordinando agli aerei della seconda flotta di trasportare il carburante senza ottenere il risultato sperato. Torniamo alla battaglia. Il 31 agosto i Panzer attaccarono la cresta di Ala Maifa, presidiata nel settore centro-orientale dalla 44ª divisione di fanteria britannica e dalla 10ª divisione corazzata britannica nel settore occidentale, secondo le predisposizioni di Auchinleck semplicemente confermate da Montgomery da appena 2 settimane al comando dell'ottava armata. Si levò una tempesta di sabbia che inchiodò a terra la RAF. Approfittando di questa insperata circostanza, i carri tedeschi attaccarono immediatamente a sud della cresta. affrontati dai 92 carri Grant della 22esima brigata corazzata, che aveva un compito ritardante, in quanto l'attaccante doveva essere battuto dall'artiglieria e soprattutto dai numerosi pezzi controcarri da 57 mm. Questo affondo tedesco non riuscì. A sera, i carri della 15esima e 21esima ripiegarono verso sud, passando la notte nella depressione Ragil. Montgomery, in quelle ore, non sbilanciò il proprio dispositivo, ma tolse comunque una brigata sudafricana dalla posizione principale del fronte e la trasferì su Ruwesat, mentre un'altra brigata affluiva dal delta per occupare la zona est dei combattimenti, lasciata dalla 10ª divisione corazzata. Il 1° settembre, la 15ª corazzata, della quale aveva assunto il comando il colonnello Kreisman, fu lanciata contro l'altura di Ala Maifa e, dopo dura lotta, giunse quasi fino alla fatale quota 132. La battaglia era nella fase risolutiva. Ciò che accadde va raccontato ancora una volta al presente. Ora granatieri, carristi, genieri combattono sotto l'incessante granuola della RAF. Se si riesce a superare lo sbarramento della quota 132, i carri potranno avanzare verso il mare. L'ottavo reggimento corazzato è già riuscito a penetrare nelle linee avversarie e nel pomeriggio del 1° settembre sta con le proprie punte avanzate a 8 km dalla costa, a terco del fronte principale di El Alamein. Ma a sinistra il 5° reggimento corazzato è rimasto impigliato e non riesce a superare le posizioni difensive britanniche, mentre durante la giornata la RAF colpisce duramente i carri e la fanteria motorizzata. Nel solo stato maggiore del DAC cadono 7 ufficiali. Il rifornimento di munizioni e carburante diventa estremamente difficile. La sera stessa Rommel decide di sospendere l'offensiva e di indietreggiare, passo passo, verso la base di partenza. Ancora 3 giorni di combattimenti e poi la corsa dei 6 giorni si conclude. Uno strano finale. La più inesplicabile e meno decisa delle offensive africane di Rommel fu quella di Ala Maifa, senza dimenticare che il maresciallo non stava bene in salute e non aveva più fiducia nella vittoria. Si è sempre sostenuto che l'offensiva fallì a causa della mancanza di carburante, ma una simile spiegazione non può essere sostenuta in senso assoluto. Il carburante era scarso, ma anche durante il ripiegamento nessun automezzo restò sul terreno immobilizzato per mancanza di benzina. Un fattore negativo importante risultò la profondità dei campi minati britannici al momento dell'assalto iniziale. In secondo luogo, Montgomery si attenne al criterio di una rigida difesa del crinale di Ala Maifa. Al generale Brian Horrocks, comandante del 13° Corpo, Montgomery aveva più volte raccomandato: Horrocks non si faccia martellare, alludendo alla necessità di risparmiare le forze corazzate. Il 7 settembre, gli ultimi fari si spensero nel settore meridionale del fronte, lasciando gli italo-tedeschi in possesso della posizione di Himeimat, coi suoi 217 metri di altezza. Ciò turbava molto i comandanti britannici, perché di lassù, italiani e tedeschi potevano osservare tutto quanto avveniva a sud di El Alamein. Ma era proprio ciò che voleva Montgomery. Si stavano apprestando il proscenio e le quinte posticce della successiva grande battaglia. Per questa scadenza, l'ottava armata aveva escogitato di costruire un oleodotto e vasti depositi fittizi per tenere sul chi vive l'avversario. «A che varrebbe?» disse Montgomery, «costruire tutta questa mascheratura se il nemico non può vederla. Lasciatelo in possesso di Himeimat. È lì dove desidero che stia». Si diceva della scarsa energia dimostrata da Rommel, soprattutto nella giornata del 1° settembre. Critico e anzi acrimonioso fu il giudizio di Kesserling. A parere del comandante Forze Sud, Rommel non aveva spinto a fondo l'attacco, anche a costo di giocare il tutto per tutto, quando il DAC stava per scavalcare il crinale di Ala Maifa. Insomma, la volpe aveva perduto lo smalto dei tempi migliori. Kesselring in seguito trovò il modo di tornare su questo argomento alla presenza di Hitler. Per noi è stato un mistero perché Rommel non abbia continuato a darci dentro. E Hitler, di rimando, sono fermamente convinto che sia una follia mantenere troppo a lungo un uomo in una posizione di alta responsabilità. Con il passare del tempo è destinato a crollare. Il 23 settembre Rommel lasciò il comando dell'armata per un periodo di cure e riposo in Germania. Lo sostituì il generale Georg Stumme, che vantava un'esperienza sul fronte russo. Prima di questo cambio al vertice, i britannici avevano tentato, 13 e 14 settembre, un colpo di mano in grande stile contro Tobruk, con un attacco congiunto dall'entroterra, reparti del Long Range Desert Group, e dal mare, reparti di Royal Marines, appoggiati da una squadra navale. L'attacco si risolse in uno scacco completo. Fanti, artiglieri, marò del San Marco, carabinieri, batterie di marina reagirono energeticamente. Poi intervennero l'aeronautica italiana e la Luftwaffe. I britannici, oltre a più di 500 uomini dei reparti speciali, ci rimisero anche l'incrociatore contraerei Coventry, i cacciatorpediniere Sikh e Zulu e alcune motosiluranti. Proprio alla fine di settembre, quasi un sinistro presagio, cadde nel cielo di El Alamein l'asso dell'aviazione tedesca, il giovane capitano Joachim Marseille, l'astro dell'Africa, con le sue 158 vittorie omologate. L'aeronautica italiana e la Luftwaffe erano sempre duramente impegnate non soltanto in Africa. In considerazione della crescente, rinnovata minaccia rappresentata da Malta, venne decisa una nuova offensiva aerea contro l'isola che iniziò il 10 ottobre. Questa offensiva venne sospesa dopo pochi giorni a causa delle severe perdite lamentate dai reparti aerei italo-tedeschi. Anche a Malta l'iniziativa era ormai saldamente nelle mani dei britannici. Il podcast di Rivista Militare, 80 anni da El Alamein, vi dà appuntamento al prossimo episodio.